Buonasera, ci siamo? Siete pronti? C'era una volta una sposa. Questa sposa era stata promessa ad un principe, che era principe di un regno molto, molto grande. Ora, questa sposa non aveva molto da poter offrire a questo principe, infatti niente di lei era all'altezza di quella vita che quel principe le stava offrendo. Però il principe la voleva lo stesso. A lui non importava da dove venisse, a lui non importava qual era la sua storia, perché lui sapeva che sarebbe stato in grado di renderla all'altezza della vita che lui voleva vivere con lei. E ora il giorno delle nozze era arrivato e c'era un po' anche la banda come fuori, no? E tutto era pronto e il principe aveva comprato per la sua sposa l'abito più bello che tu possa immaginare. Super bianco, super pomposo, no? Con 850 veli, super pizzo, perché alle spose piace il pizzo. Super velo lunghissimo di 13 metri, bordato di pizzo prezioso che non si capisce. Super, com'è che si chiama? Aspettate, super diadema, più di quello che Laura ci aveva quando si è sposata. Super, cioè il diadema di Laura 10 volte di più. Tutto questo era un abito che la sposa non poteva permettersi, ma tutto era pronto. E la cattedrale all'interno del giardino reale era pronta per accogliere e celebrare questa cerimonia e queste nozze. Ora immaginatevi questa cattedrale maestosa. Quel giorno, in quel posto, la sua sposa sarebbe diventata sua moglie. Non sarebbe stata più solamente la sua sposa, ma avrebbe regnato con il suo principe per sempre. Le porte si aprono di questa immensa cattedrale, un tappeto rosso lungo 10 chilometri perché era molto lunga, e in fondo, come si aprono quelle porte, lei vede il suo principe sull'altare ad aspettarla. C'è una foto, credo, chiedo alla regia di mandarla, non so se riuscite a vedere bene, più o meno era così in questa storia di questa sposa che stava camminando verso il suo principe che la stava aspettando all'altare. E ad ogni passo che la sposa faceva, tanti pensieri hanno iniziato ad affollare la sua mente. E lei ha iniziato a pensare: sarò veramente in grado di regnare accanto a questo principe? Sarò capace di vivere questa nuova vita? Sarò all'altezza di ogni situazione che ci sarà? In effetti, non era neanche degna di portare quell'abito bianco che il principe le aveva comprato. E se non ce la fa? E se tutti quegli occhi di tutte quelle persone sapessero quello che lei stava pensando, che cosa succederebbe? Forse lei si era sbagliata. Aveva sbagliato a pensare che si sarebbe potuta sposare a questo principe. Forse quella vita non era la sua vita. Forse era troppo difficile, anzi, forse per lei era impossibile. E mentre cammina con tutti questi pensieri, a un certo punto si blocca. Si gira e scappa via. Scappa così lontano che inizia a correre nel giardino reale e perde il diadema, il velo si strappa, l'abito si sporca, e ad ogni pezzo che lei perde pensa di sé: hai visto? Hai visto? Non sei buona. Non sei buona. Non ce la puoi fare. Non sei degna. Sapevi che sarebbe nato così. E in preda a tutto questo pensiero trova l'angolo più lontano in quel giardino e si nasconde raggomitolata sotto il cespuglio a piangere su se stessa e a piangere sulla sua disgrazia. Quante volte noi, sposa di Cristo, nel correre la nostra corsa verso lo sposo che ci sta aspettando con la promessa di quella vita piena e abbondante e soprannaturale che ha preparato per noi al suo fianco, viviamo la nostra corsa come quella sposa che si gira dall'altra parte e inizia a correre lontano. Lontano da quel sì che aveva pensato e che aveva scelto di poter pronunciare. Questa sera vogliamo uscire da questo posto confessando e continuando a confessare sulla nostra vita che noi corriamo verso il nostro sposo. Sì? Cristo Gesù, il centro di ogni cosa. Lo abbiamo cantato. E mentre lo cantavamo io, e non c'erano gli strumenti, io sentivo noi e vedevo noi ad ogni passo, mentre noi lo cantavamo come sua sposa che ci avvicinavamo a Lui. Perché Lui è il nostro centro, perché verso Gesù noi vogliamo guardare. A Lui noi vogliamo pensare, di Lui noi vogliamo parlare e in Lui noi vogliamo vivere. Questa è la sposa che noi siamo. E io voglio continuare la nostra avventura all'interno e attraverso il libro degli Atti degli Apostoli, perché c'era una sposa che prima di noi ha corso una corsa e non ha avuto una vita facile, ma non si è tirata indietro. Ha corso la sua corsa fino alla fine, verso lo sposo, a qualsiasi costo, pagando il prezzo fino in fondo. Ci piace? Quindi voglio che ci alziamo in piedi, perché stiamo per aprire la parola di Dio. E quando apriamo la parola di Dio ci trasforma. E io voglio pregare, perché noi ci stiamo presentando davanti alla parola di Dio in questo momento. Perché davanti alla sua parola e attraverso della sua parola noi veniamo trasformati. E anche nel Vecchio Testamento c'era la banda che suonava, perché facevano grande festa, perché era un momento solenne. E noi stiamo per vivere un momento solenne. Stile Vecchio Testamento. Ci piace? Riuscite a pregare con me, lodando Dio attraverso il suono della banda? Signore Gesù, ti ringraziamo perché la tua parola è viva e perché la tua parola ci dà vita. E Signore Gesù, questa sera insieme vogliamo aprire la tua parola per essere istruiti dalla tua parola, per avere rivelazione tua di quella vita soprannaturale e abbondante che tu hai preparato per noi. Per questo Spirito Santo ti chiediamo di scendere e di riempire noi stessi, riempire il nostro cuore, affinché i nostri occhi possano vedere quella verità che ci rende liberi di correre quella corsa per conquistare quei territori che tu hai preparato per noi. E nel tuo nome, una chiesa che confessa e che dichiara questo con fede dice amen, amen. Ci possiamo accomodare e ci immergiamo subito. Avevamo lasciato la chiesa primitiva che stava facendo, come si dice a Bari, macid, cioè opere, prodigi, miracoli, non si capiva niente, la banda che suonava insieme, tutto. E a un certo punto, al capitolo 6, leggiamo che in quei giorni, moltiplicandosi il numero dei discepoli, sorse un mormorio da parte degli ellenisti contro gli ebrei. Ora, un attimo di pausa, chi erano gli ellenisti? Gli ellenisti erano quegli ebrei che parlavano greco e che erano rientrati a Gerusalemme dopo essere stati dispersi nei secoli precedenti. Quindi loro erano rientrati a Gerusalemme e si differenziavano dagli ebrei che avevano vissuto in Palestina per tutto il tempo, perché la loro prima lingua era il greco, che era anche la lingua franca in tutto il Mediterraneo, in quel periodo storico. Quindi quando leggiamo ellenisti ed ebrei in questo passo ci riferiamo a queste due categorie di persone, ok? Quindi sorse un mormorio da parte degli ellenisti contro gli ebrei perché le loro vedove erano trascurate nell'assistenza quotidiana. I dodici, quindi, convocata la moltitudine dei discepoli, dissero: «Non è conveniente che noi lasciamo la parola di Dio per servire alle mense. Pertanto, fratelli, cercate di trovare fra di voi 7 uomini dei quali si abbia buona testimonianza, pieni di Spirito Santo e di sapienza, ai quali affideremo questo incarico. Quanto a noi, continueremo a dedicarci alla preghiera e al ministero della parola». Questa proposta piacque a tutta la moltitudine, ed è l'essero Stefano, uomo pieno di fede e di Spirito Santo, Filippo, Procoro, Nicanore, Timone, Parmena e Nicola, proselito di Antiochia. Li presentarono agli apostoli, i quali, dopo aver pregato, imposero loro le mani. La parola di Dio si diffondeva e il numero dei discepoli si moltiplicava grandemente in Gerusalemme. Pensate, a tal punto che anche un gran numero di sacerdoti ubbidiva alla fede. Ora Stefano, pieno di grazia e di potenza, faceva grandi prodigi e segni tra il popolo. Ma alcuni della sinagoga, detta dei Liberti, dei Cirenei, degli Alessandrini e di quelli di Cilicia e d'Asia, si misero a discutere con Stefano e non potevano resistere alla sapienza e allo spirito con cui egli parlava. Allora istigarono degli uomini e dissero: «Noi lo abbiamo udito mentre pronunciava parole di bestemmia contro Mosè e contro Dio». Ed essi misero in agitazione il popolo, gli anziani e gli scribi, e venutigli addosso lo afferrarono e lo condussero al Sinedrio e presentarono dei falsi testimoni che dicevano: «Quest'uomo non cessa di proferire parole contro il luogo santo e contro la legge. Infatti lo abbiamo udito affermare che quel Nazareno, Gesù, distruggerà questo luogo e cambierà gli usi che Mosè ci ha tramandati». E tutti quelli che sedevano nel Sinedrio, fissati gli occhi su di lui, videro il suo viso simile a quello di un angelo. E il sommo sacerdote gli disse, «Stanno proprio così le cose?» E Stefano rispose: «E da questo momento, per 53 versi nel capitolo 7, Stefano fa un discorso che è uno dei discorsi più importanti contenuti all'interno del libro degli Atti, un discorso che cambia definitivamente la storia della Chiesa per quello che accade subito dopo il suo discorso, che è quello su cui noi ci concentreremo. E lui parte da Abramo e poi passa attraverso i patriarchi, attraverso Giuseppe, e poi arriva Mosè e parla del tabernacolo e poi parla di Davide, di Salomone, del Tempio, insomma, gliele mette tutte dentro. E guardate che cosa succede dal verso 54 del capitolo 7 di Atti. Essi, udendo queste cose, fremevano di rabbia in cuor loro e digrignavano i denti contro di lui. Più o meno così, secondo me, non lo so, però questa è la mia interpretazione. Ma Stefano, pieno di Spirito Santo, fissati gli occhi al cielo, vide la gloria di Dio e Gesù che stava alla sua destra e disse: «Ecco, io vedo i cieli aperti e il Figlio dell'uomo in piedi davanti alla destra di Dio». Ma essi, gettando grida altissime, si turarono gli orecchi e si avventarono tutti insieme sopra di lui e, cacciatolo fuori dalla città, lo lapidarono. I testimoni deposero i loro mantelli ai piedi di un giovane chiamato Saulo. Interessante. E lapidarono Stefano, che invocava Gesù e diceva: «Signore Gesù, accogli il mio spirito». Poi, messosi in ginocchio, gridò ad alta voce e disse: «Signore, non imputare loro il loro peccato». E detto questo, si addormentò. È bello che negli Atti, quando leggiamo che qualcuno si addormentò, vuol dire che durante la persecuzione veniva ucciso, ma nonostante il dolore che provava, c'era la pace nel suo cuore perché aveva lo Spirito Santo e la sua morte era come un addormentarsi. Non so se uno potrebbe mai addormentarsi a Via di Pietrate. E Saulo approvava la sua uccisione. Vi fu in quel tempo una grande persecuzione contro la Chiesa che era in Gerusalemme. Tutti furono dispersi per le regioni della Giudea e della Samaria, salvo gli apostoli. Uomini pii seppellirono Stefano e fecero gran cordoglio per lui. Saulo, intanto, devastava la Chiesa entrando di casa in casa. Immagina qualcuno che viene dal tuo gruppo familiare e trascinando via uomini e donne li metteva in prigione. Leggiamo fin qui. Nei primi versi del capitolo 6 comprendiamo come a un certo punto della storia della Chiesa primitiva tutta l'organizzazione che gli apostoli avevano pensato in Atti al capitolo 4, versetto 5, che abbiamo visto nelle altre volte, dove ognuno deponeva ai piedi degli apostoli quello che aveva, per poi essere distribuito a ciascuno secondo il suo bisogno, non bastava più al numero sempre più crescente delle persone che si convertivano. E i 12 apostoli, che all'inizio della Chiesa primitiva si erano occupati personalmente di curarsi dei poveri e delle vedove e dei bisognosi, ora non riuscivano più ad avere quella forza fisica e quel tempo materiale per fare tutto. Tanto è vero che la loro mancanza evidenziata nel sostentamento ai poveri diventa oggetto di mormorio degli ellenisti, che a un certo punto si sono messi a dire: ma vedi a questi, ai loro poveri hanno fatto tutta la raccolta, Saffira e Anania sono pure morti, Kalashtmal, tutto sto casino. E mo' arrivano le vedove degli ellenisti, da dove vengono loro per ritornare a Gerusalemme, per essere accudite, e nessuno ci pensa, e nessuno fa nulla. Iniziarono a mormorare contro di loro. Qual è stata la decisione che i 12 apostoli hanno preso per correre davanti a questa situazione? Hanno riconosciuto che non potevano più da soli occuparsi di tutto questo, di tutto quello che era necessario per il bisogno dei poveri, e allo stesso tempo dedicarsi al 100% alla preghiera e all'insegnamento della parola, e hanno scelto di fare squadra. Hanno fatto squadra e hanno detto: ok, è necessario che capiamo chi fa cosa, perché se vogliamo continuare a fare bene quello che noi facciamo, dobbiamo preoccuparci di tutte queste cose, altrimenti quello che facciamo sarà fatto a metà. E non faremo bene il lavoro con i poveri, e non faremo bene nell'insegnamento, non faremo bene nella preghiera, e non andremo da nessuna parte. Servire alle mense non era necessariamente una cosa inferiore all'insegnamento e alla preghiera, ma gli apostoli, i dodici, era importante che si dedicassero a quello per cui loro erano stati strettamente chiamati a fare, e cioè testimoniare di quello di cui loro erano stati testimoni, e insegnarlo come Gesù lo aveva insegnato a loro. Per questo, forse 7 uomini di buona testimonianza, ripieni di Spirito Santo e sapienza, come abbiamo letto nel verso 3, che sapevano parlare greco per poter comunicare con queste vedove, erano la soluzione più efficace e più efficiente in quel momento. È di questo che stiamo parlando. Infatti, leggendo e studiando, i nomi delle persone scelte sono tutti dei nomi di origine greca. Questo ci fa pensare che queste 7 persone siano state individuate proprio tra gli ellenisti per permettere agli ellenisti di essere curati e di crescere nel loro percorso. Per questo noi corriamo facendo squadra. Alla fine, il pastore potrebbe predicare ogni domenica, potrebbe condurre ad ogni incontro, potrebbe, non lo so, venire a tutti i nostri gruppi familiari, così, a fare lui. Predica lui, è buono che lo fa lui. Potrebbe occuparsi degli upside down, potrebbe fare la lode adorazione. In fondo, in alcuni casi succede anche questo. Oppure, noi possiamo fare squadra. E al verso 7 di Atti 6 dice che la parola di Dio si diffondeva. E il termine originale in questa parola si traduce con cresceva. Cresceva il numero di discepoli e si moltiplicava grandemente in Gerusalemme e il numero di sacerdoti che ubbidiva alla fede. La conseguenza della scelta di fare squadra da parte dei 12 discepoli, costituendo 7 leader, 7 responsabili che potessero affiancarli, ha permesso la crescita di coloro che si convertivano al cristianesimo. Cioè, perfino i sacerdoti, che erano proprio gli ebrei più, no, radicali palestinesi, che sapevano tutto quanto, si stavano convertendo a riconoscere che Gesù era l'unica via. Se noi corriamo facendo squadra, noi corriamo andando avanti insieme. Non solo i 12, non solo i 7, ma ognuno coordinato e guidato da loro permetteva alla parola di Dio di crescere. Ora, quanti di noi servono la domenica in una qualsiasi area che permette a questo incontro di esserci? Alziamo la nostra mano. Quanti di noi servono la domenica in un qualsiasi modo? In chiesa? Di più, alzate di più la mano. Guardatevi un po' intorno. Quanto siete belli. Ora, io ho fatto una stima. Grazie, Vito. Io ho fatto una stima e ho contato che più di 90 persone ogni mese, e alcune più di una volta al mese, servono. Solo nelle aree di cui io sono responsabile. Di queste 90 persone, 20 sono dedicate all'eccellenza, 40 sono dedicate all'accoglienza e il restante si divide tra punto info, bar e libreria. Ora, ad esempio, prendiamo ad esempio l'accoglienza, no? Ora, io vengo in chiesa ogni domenica, vengo la mattina e vengo la sera. Quindi tranquillamente io potrei guidare il gruppo dell'accoglienza, che è di turno fedelmente quella domenica. Ormai credo di aver capito come funziona, quindi potrei riuscire ad arrangiarmi per far andare avanti questa cosa. Ma qual è il punto? Che io faccio quello che posso fare perché lo so fare e sono bravo a farlo e poi posso andare dal pastore e dico: ma pastore, hai visto? Ogni domenica qua si accoglie. Se non c'ero io... Oppure il punto è che noi possiamo correre andando avanti insieme. E non c'è gioia più grande per me vedere ad esempio Vito e Maria questa sera, prendere responsabilità sul loro gruppo, guidarli nell'accogliere e sapere che domenica prossima c'è Pino la mattina che farà lo stesso e poi ci sarà Eugenio la sera che farà lo stesso e poi ancora ci sarà Antonio Maselli che farà lo stesso e Giacinto che oggi è in regia che farà lo stesso e poi ci sarà Francesco e poi ci saranno Antonio e Sandra. Noi corriamo andando avanti insieme. E questa sera io non sono stato alla porta ad accoglierti con un sorriso, ma c'erano Domenico e c'erano Michelangelo che alla bandiera ti hanno accolto con un sorriso. E io lo so che anche se io non c'ero, il mio sorriso è arrivato fino a te, perché loro hanno sorriso anche per me. Di più! Il mio sorriso è il sorriso che il pastore ti voleva dare quando tu hai varcato quella porta per dire: ehi, benvenuto, voglio accoglierti nella nostra chiesa, nella nostra famiglia. Di più, era il benvenuto che Gesù ti voleva dare. Il benvenuto che lui ti sta dando nell'accoglierti a casa sua. Nel dire: ehi, sei la mia sposa. Ehi, io ti amo e ho dato la mia vita per questo. E voglio servirmi di Michelangelo e di Domenico per dimostrartelo. Noi corriamo andando avanti insieme. E se non sei ancora parte di questa squadra fortissimi, che cosa stai aspettando? Siamo solo più di 90. Siamo troppo pochi. Vedi gli occhi come si... Quello faccio così, mia moglie dice: ma chiudi gli occhi. Siamo troppo pochi. Noi vogliamo correre facendo squadra anche con te, perché è bello. Noi corriamo riempendoci di Spirito Santo. E l'avevamo visto al verso 33 del capitolo 4 di Atti, che gli apostoli con grande potenza rendevano testimonianza della resurrezione del Gesù. E sulla resurrezione ci fu il rullo dei tamburi. E grande grazia era su tutti loro. E allo stesso modo Leggiamo nel capitolo 6 al verso 8 che Stefano, pieno di grazia e di potenza, faceva grandi prodigi e segni tra il popolo. Mi piace. Questa è una predica accompagnata dal ringraziamento, accompagnata dalla lode. È interessante vedere come essere ripieno di Spirito Santo era la condizione che Stefano avesse prima di essere stato scelto di far parte dei sette che servivano alle mense. Importante questo da vedere, perché la condizione dell'essere ripieno di Spirito Santo era quella che lo aveva portato ad essere scelto tra i sette che avrebbero servito alle mense. Ancora più importante è vedere che quella condizione lui l'ha mantenuta alta, perché ha servito alle mense delle vedove elleniste con efficacia, con eccellenza, tanto che a un certo punto tutti quelli della sinagoga hanno cercato di metterlo in difficoltà, perché hanno detto: questo è troppo forte, fa segni, fa prodigi, sembrava uno che doveva servire alle mense, ma questo la sa lunga, mo lo dobbiamo mettere in difficoltà, mo gli dobbiamo fare tutte le domande difficili. Ma non ci sono riusciti, perché non potevano resistere alla sapienza dello spirito con cui lui parlava. Verso 10. Non potevano resistere. Ed è interessante vedere come Luca, l'autore del libro degli Atti, che è lo stesso che ha scritto il Vangelo di Luca, ovviamente, l'aveva scritto in Luca 12:12 e 21:15, che i discepoli sarebbero stati ripieni di Spirito Santo, che avrebbero avuto sapienza e che non si sarebbero dovuti preoccupare di quello che dovevano rispondere quando qualcuno gli faceva delle domande, perché lo Spirito gliel'avrebbe detto. La Chiesa primitiva viveva la promessa che Gesù aveva fatto. Noi oggi possiamo vivere questa promessa correndo ripieni di Spirito Santo. Ora, dato che non erano riusciti a metterlo in difficoltà, al verso 11 leggiamo che volevano comunque avere la meglio su di lui e lo accusano falsamente. Gli dicono: così è, tu sai tutti i fatti, mo vedi un po'. Lo accusano falsamente usando contro di lui le sue stesse parole che lui aveva detto per giudicarlo di blasfemia contro Mosè e contro Dio e portarlo davanti al Sinedrio. E come vi ho detto prima, per i primi 53 versi del capitolo 7, che vi incoraggio di andare a leggere a casa, che sono molto lunghi e che sono molto tecnici e che noi non leggeremo in questo momento, Luca registra una testimonianza del suo discorso per difendersi dalle accuse e fa il macello, spacca tutto. Cioè, a conclusione del suo discorso, tanto spacca tutto che non si capisce più niente. Cioè, sembra che nel Sinedrio si perde proprio il lume della ragione. Uno che serviva alle mense delle vedove degli ellenisti. Qualcuno di noi potrebbe pensare: scelto per poca roba, non è sicuramente la mia chiamata. Così come era, nella possibilità che gli era stata data, con quello che lui aveva, eppure ripieno di Spirito Santo. Tanto da correre fino in fondo, fino alla fine e senza risparmiare nulla. Per questo noi corriamo sacrificandoci fino alla fine. Per questo noi corriamo sacrificandoci fino alla fine. E fino ad ora, per questi sei capitoli, le puntate dei discepoli davanti al Sinedrio si erano, diciamo così, concluse, permettetemi questo termine, con una grandissima caricata di mazzate sana sana, no? Erano stati presi a mazzate, di tutto gli era successo, per ognuno di loro. Ma questa volta il livello sale. E il termometro, il mercurio nel termometro esplode. E a fine discorso di Stefano, l'ordine scompare. Cioè nel Sinedrio non si capisce più niente e tutti impazziscono di una rabbia tale da iniziare a guardare a Stefano e digrignare i denti. Immagina se tu stai davanti a un'assemblea di persone e questi tutti pronti. E al verso 55, in tutto questo, che cosa succede? Che Stefano, pieno di Spirito Santo, fissati gli occhi al cielo, vide la gloria di Dio e Gesù che stava alla sua destra e disse: ecco, io vedo i cieli aperti e il Figlio dell'uomo in piedi alla destra di Dio. Ma essi, gettando delle grida altissime, si turarono gli orecchi, si avventarono tutti insieme sopra di lui e, cacciatolo fuori dalla città, lo lapidarono. Un'esplosione di violenza succede in questo posto, così, non si è capito più niente. Cioè non hanno neanche avuto il tempo di dire: ok, c'è una sentenza, quest'uomo deve essere lapidato, quindi votiamo, lo vogliamo lapidare? Lo vogliamo uccidere perché ha detto blasfemia? No, non c'è tempo di nulla. Stefano viene sequestrato, trascinato fuori dalla città e ucciso a pietrate, così a sangue freddo. Il primo martire della storia del cristianesimo. Ora io non so perché doveva andare così per lui. E io non credo che lui si sia fatto troppe domande su capire quello che stava accadendo contro di lui. Noi sappiamo solo che lui ha guardato a Gesù fino alla fine. E così come Gesù sulla croce ha rimesso il suo spirito nelle mani del Padre, lui al verso 59 invocava Gesù e diceva: Signore Gesù, accogli il mio spirito. E così come Gesù sulla croce ha detto: Padre, perdona loro perché non sanno quello che stanno facendo, lui nel verso 60 ad alta voce gridò: Signore, non imputare loro questo peccato. Noi corriamo sacrificandoci fino alla fine e non ci tiriamo indietro. E seppure la morte di Stefano corrisponde ad un picco massimo di persecuzione da parte degli ebrei verso la Chiesa e verso i cristiani in quel momento storico, allo stesso tempo corrisponde alla diffusione geografica della Chiesa e preannuncia l'inizio della predicazione del Vangelo a tutte le persone, di tutte le etnie, di tutti i popoli, di tutte le razze. La storia non sarebbe stata più la stessa. La storia della Chiesa da questo momento in poi non sarebbe stata più la stessa. E leggiamo che la sua lapidazione si conclude e i testimoni deposero i loro mantelli ai piedi di un giovane chiamato Saulo. Entra in scena per la prima volta special guest l'apostolo Paolo, ovvero Saulo. Nessuno lo conosceva, nessuno sapeva chi era questo giovane al quale erano state deposte quelle vesti, ma Dio lo conosceva. Nessuno sapeva che quel giovane al quale avevano deposto le vesti di lì a poco avrebbe approvato quella uccisione e avrebbe devastato la chiesa tanto da entrare di casa in casa trascinando via uomini e donne per imprigionarli. Nessuno sapeva che Saulo avrebbe combinato tutto questo, ma Dio sì. Nessuno sapeva che Saulo sarebbe diventato Paolo, ma Dio sì. E tutto quello che si poteva vedere in quel momento era morte, era sofferenza, era distruzione, era persecuzione, era devastazione, Eppure, nonostante tutto questo, niente sarebbe stato più lo stesso. Tutto sarebbe cambiato da quel momento in poi, perché quando sacrifichi tutto e arrivi fino alla fine, lì c'è Dio ad aspettarti e ad incontrarti e a ricordarti che noi corriamo conquistando nuovi territori. Noi corriamo conquistando nuovi territori. Forse non la faccia di Saulo per te in questo momento. Forse fanno molto male. Come la morte di Stefano faceva molto male. Forse hai paura perché non li conosci. Ma Dio li conosce. E forse pensi che non ce la puoi fare. Ma Dio può. Lui può ogni cosa. E forse i giganti sono grandi. E forse le montagne sono veramente molto alte. E forse veramente noi non siamo all'altezza del nostro sposo. E forse mai lo saremo. Ma non per questo cessiamo di essere la sua sposa. Non perché io e te pensiamo di non potercela fare e giriamo le spalle e corriamo dall'altra parte e tutto si strappa e tutto sembra perduto. Noi cessiamo di essere la sua sposa. Alziamoci in piedi. Nove mesi fa io mi sono sposato ed ero all'altare. Il corridoio era un po' meno lungo, il vestito era un po' meno pomposo, però io stavo aspettando la mia sposa. E io che sono limitato, se la mia sposa si fosse girata e se ne fosse scappata, io sarei riuscito a rincorrerla. Quanto più il nostro sposo non viene a cercarci nell'angolino sotto quel cespuglio dove noi stiamo piangendo. E mi piace che l'apostolo Paolo, lo stesso Saulo, dopo tanto tempo, nella seconda lettera che scrive ai Corinti, al capitolo 11 verso 2, dice: infatti sono geloso di voi, della gelosia di Dio, perché vi ho fidanzati ad un unico sposo, per presentarvi come una casta vergine a Cristo. La verità è che non importa quanto il vestito che tu hai e che Dio ti ha dato si sia strappato, o sia sporco, o sia rovinato. La verità è che Dio ci ha fidanzati ad un unico sposo per presentarci come una casta vergine a Cristo. Questa è la verità. E noi possiamo continuare a credere le bugie che il diavolo ci dice. Che non ce la fai, che non ce la farai mai, che non sei degno. E possiamo continuare a camminare convinti di tutte queste bugie. Oppure possiamo scegliere di guardare a Gesù e riconoscere che sì, noi non ce la possiamo fare. Sì, il vestito si è strappato, ma Lui ci è venuto a prendere. Lui ci è venuto a prendere e non ha paura di sporcare le sue mani nell'immischiarsi nella tua vita. Infatti lo ha già fatto, morendo sulla croce e risorgendo per me e per te. Lui non ha paura che il nostro vestito sia strappato. Lui sa dove ci vuole portare. Noi non dobbiamo fare altro che continuare a correre verso di Lui e Lui penserà tutto il resto. E io voglio pregare questa sera con noi e invito il gruppo sul palco. Pensavo ci fosse, invece no. Io non so quanto lontano è il cespuglio dove ci siamo potuti nascondere. Io non so qual è la cosa che ci fa così male davanti a noi, che non riusciamo ad arrivare fino in fondo. Ma quando noi corriamo fino in fondo, Gesù è lì che ci sta aspettando. E quando noi non abbiamo bisogno di tirarci indietro, Lui è lì. Sì? E io prego che noi questa sera usciamo da questo posto come quella sposa che è stata ritrovata sotto quel cespuglio e che a testa alta, permettetemi questa parola, chi se ne frega che il vestito è sporco? È proprio così. Lo sposo ti ha scelto e lui non cambia. Io sarei andato a prendere mia moglie ovunque. L'avevo aspettata per così tanto tempo. E Gesù ti ha aspettato per così tanto tempo. Tutto il tempo che ti ha separato da Lui. E ora ti vuole. E non gli importa il resto. Vuole sposarsi con te. Signore Gesù, noi vogliamo confessare che dal nostro cuore al cielo Tu sei il centro. Noi vogliamo confessare che Tu sei il centro della nostra Chiesa, che ogni lingua confesserà e ogni ginocchio si piegherà davanti a Te, perché Tu sei il nostro sposo. E vogliamo cantarlo confessandolo sulle nostre vite, confessandolo sulle nostre situazioni, confessandolo davanti a quelle montagne che sembrano troppo alte, confessandolo davanti a quei giganti che sembrano troppo grandi. Signore Gesù, dal nostro cuore al cielo Tu sei il centro e tutto è per Te. Tutto è per Te.